Le varie fasi non prevedeva ancora la produzione, non eravamo ancora pronte per la produzione. Noi eravamo Sono nella andate fase troppo avanti, tra troppo avanti. virgolette, è Sa perché? l'entusiasmo. E l'entusiasmo, perché dopo le formazioni, le attrezzature che abbiamo utilizzato per la formazione, noi stiamo mettendo a posto un locale per loro. E questo locale non è ancora pronto, siamo alle ultime, siamo alle piastrelle. Si deve aspettare di finire il locale, di installare l'attività, di inaugurare, invece loro sono andati a dire, ma no, ma perché ci fermiamo? Qui possiamo anche fare le cose, perché fermarsi? Si parte. La domanda la pongo in modo diverso. Quando la produzione sarà operativa? Allora, lo capiremo bene nella seconda annualità, perché abbiamo un secondo anno che parte adesso in questo mese. Il percorso della seconda annualità prevede un business plan, un piano commerciale, tutto un accompagnamento verso la promozione e vendita del prodotto, sia a livello locale, nei mercati limitrofi, con anche dei punti di vendita e anche nelle scuole, perché per esempio durante le ricreazioni, nei Sulla stessa stadi, annualità. manifestazioni religiose, nei campomani del turismo responsabile, che il progetto ha una componente così, allora si dovrà capire bene. Cioè, voi vorreste invadere di succhi di frutta, di succhi di Tutto sciroppi il il territorio, paese. il Si paese, parte da Kebemer fino a Dakar per e in arrivare Italia.